Mix 24 di Giovanni Minoli. Se prima in bolletta c'era l'elettricità, oggi puoi trovarci Bruno, Vespa e la Carrà. Con la prova del cuoco il forno ti si accenderà, ma quando c'è Marzullo il salvavita scatterà. Su alla Rai non sono più tristi e Renzi è strepitoso, il canone in bolletta sarà meno doloroso. 500 euro se non paghi è spaventoso. Su alla Rai non sono più tristi e Renzi. Sul canone in realtà le novità non finiscono mai. E l'ultima arriva da Edison, oggi. Alessandro Zunino, amministratore delegato di Edison Energia, buongiorno. Buongiorno. Tra poco, alle 11.30, Edison Energia darà una notizia clamorosa, e cioè che rimborserà il canone RAI agli italiani che siano vostri clienti, è così? Esatto, a tutti coloro che sottoscriveranno la nuova offerta che stiamo lanciando oggi, che siano già nostri clienti oggi o che lo diventino per la prima volta, noi rimborseremo il canone TV in 10 rate da 10 euro ciascuna. Ma sarà un fatto automatico oppure ogni cliente dovrà chiedere questa diciamo, sottoscrivere questo pacchetto? Bisognerà sottoscriverlo. Per i clienti che diventeranno clienti Edison per la prima volta sarà ovvio. Di rapporti, quindi sarà un nuovo contratto. E per chi lo è già? Per chi è già nostro cliente dovrà semplicemente chiedere di cambiare l'offerta, quindi passare da quella che ha oggi alla Edison Luce Leggera, e dal primo mese di fornitura con la nuova offerta partirà il rimborso del canone. E sarà senza aumento del come dire, dell'ammontare complessivo di quello che pagava l'anno prima? Avrà Edison Luce Leggera a un suo listino, peraltro sottolineo che è un prezzo fisso per 2 anni in questo momento. Ci risulta essere l'unica offerta in cui l'azienda si impegna per 2 anni a mantenere il prezzo fisso, e rispetto al prezzo dell'energia verrà comunque in ogni bolletta detratto l'importo di 10 euro. Che cosa vi ha spinto a farlo? Stiamo cercando di rispondere continuamente un po' ai bisogni dei nostri clienti o in generale degli italiani, quindi recentemente abbiamo cercato di sviluppare servizi innovativi soprattutto sulla riduzione dei consumi domestici, quindi strumenti per l'efficienza energetica in casa, ma non solo, essendo in questo momento il canone TV una novità che ha un impatto forte, diciamo, sugli operatori. È la tassa più odiata dagli italiani, quindi insomma. Che cerchiamo di venire incontro come possiamo, e in questo caso possiamo perché siamo il canone TV, appunto, viene pagato in bolletta, e quindi abbiamo pensato di sfruttare questo momento per aiutare i nostri clienti o chi lo vorrà diventare. Ecco, avete fatto una previsione di risultati come ultima domanda? Noi ci aspettiamo in pochi mesi di avere almeno 100.000 sottoscrizioni. Cioè 100.000 persone che vi chiedono questo pacchetto? Sì. 800 24 00 24, le telefonate, 349 238 6666, gli sms. Mario, un'idea di marketing interessante, sì. Poi bisogna vederla bene all'interno, ma insomma sì, è una delle rare volte in cui la gabella diventa una splendida occasione per fare marketing, un'opportunità di marketing, sì, molto acuta come bisogna trovata, capire cosa come funzionerà, però insomma tu che no, ne pensi, Mario? Male. Pietrangelo, tu che dici? Io sono senza parole. Sei rimasto basito? Comunque, non so. Mi sembra, non vorrei offendere nessuno, come un po' il gioco delle tre carte. A un certo punto qualcuno si entusiasma, c'è la probabilità che funzioni. Però chi lo sa? Sempre cose di Demo Plutocrati sono. No, vabbè, però insomma è un'idea. Soprattutto cogliere un'opportunità immediata che viene dal canone in bolletta per costruirci sopra un'offerta commerciale, insomma, sì, un'idea. Sì. Poi si vedrà qual è la sostanza della l'utilità. Certo, quindi pagano loro il canone, sì, e in cambio? No, ti abboni a Edison. A Edison. Cioè, e che succede? No, succede che invece che pagare l'elettricità Enel la paghi a Edison. Certo. Più o meno. La corrente elettrica qualcosa. Devi prendere. E non va via. Pronto? Pagare devi pagare. Vabbè, devi pagare. Insomma, vabbè. Quindi si paga sempre. Quello è sicuro. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Sapere perché mi arrestate? Lo saprà dal giudice istruttore quando sarà interrogato. Io non ho fatto niente, ci deve essere un errore. Perché mi deve interrogare il giudice? C'è chi ancora non riesce. riesce a togliersi di dosso il marchio di colpevole e chi ha bruciato gli anni migliori dietro le sbarre per una sentenza sbagliata. È una catena infinita da personaggi famosi a gente comune, tutti vittime di mala giustizia. Ci vorrebbe una scala, mi ci vorrebbe una luce. Noi abbiamo deciso di fare una riforma della giustizia perché credo che tutti siamo d'accordo sulla riforma della giustizia. Magari non siamo d'accordo su che cosa fare, ma che in Italia le cose non funzionano, siamo tutti d'accordo. È stato calcolato che ogni anno lo Stato spende 40 milioni di euro in riparazioni per ingiusta detenzione, che fanno oltre 420 milioni di euro negli ultimi 10 anni. Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Parole indimenticabili quelle di Tortora. Intanto ogni anno in Italia circa 7.000 persone vengono arrestate e poi giudicate innocenti. Lo Stato sbaglia, e a guardare i numeri del Ministero di Grazia e Giustizia sbaglia molto. Dal 92 a oggi il Tesoro ha pagato 630 milioni di euro per indennizi a quasi 25.000 vittime di ingiusta detenzione. Però non tutte le vittime vengono risarcite, soprattutto non subito. Spesso dopo anni di calvario giudiziario, in aula, anche fuori, dove bisogna trovare i soldi per pagarsi gli avvocati di tasca propria. Abbiamo una testimonianza utile a capire fino a che punto questa mancanza di tutela influenzi la vita delle persone. È la storia di Giuseppe Gullotta, uno dei peggiori errori giudiziari del recente passato. Gullotta, fu arrestato 18enne a Trapani per un'accusa gravissima, l'omicidio di 2 carabinieri, e condannato all'ergastolo. Nel 2012, cioè dopo 22 anni di carcere, è stato riconosciuto pienamente innocente. Ecco Gullotta, partiamo da qui. Come si sopravvive 22 anni in carcere da innocente? Beh, si sopravvive male. Uno, come dire, come ho fatto io, mi sono un po' prefissato degli obiettivi e in questo modo credo di avercela fatta. Che obiettivi si è dato progressivamente? Ma gli obiettivi, in base all'ordinamento penitenziario, anche all'ergastolano, dava la possibilità, avendo una buona condotta, di tornare, diciamo, nella società civile a piccoli passi, sì, come i permessi, il lavoro all'esterno, la semilibertà, e alla fine poi c'era la condizionale, a quanto io sono arrivato a ottenere, diciamo, tutto. E adesso cosa fa per vivere? Ma per vivere, sinceramente, adesso lavoro, non lavoro, perché la ditta dove lavoravo in questi anni, purtroppo per motivi di lavoro, scarso lavoro e via dicendo, mi hanno dovuto licenziare. Vivo con il prestito di una banca, della banca di Cambiano di Certaldo, e l'aiuto di qualche buone persone che cercano di farmi andare avanti. Ecco, ma lei quanto ha speso per difendersi fino a arrivare a essere proclamato innocente? Ma noi, guardi, io le devo dire la verità, ho speso precedentemente, diciamo, tutti i processi che io ho subito, pagando naturalmente gli avvocati, la cifra non riesco a dirla, come dire, perché è tanta. Sì. Però ecco, in fase di revisione, diciamo, con gli avvocati, al momento lo hanno fatto, diciamo, gratuitamente, e poi con la speranza. Aspettano che arrivano i soldi dello Stato. E come certo. i suoi avvocati hanno accumulato 136.000 euro di spese vive e le hanno chiesto 300.000 euro a testa. Ma le ha pagate lei o le ha pagate lo Stato queste cifre? No, ancora non sono stati pagati gli avvocati. Si aspetta che lo Stato mi percepisca quella cifra, diciamo, per poter poi assolvere a questa situazione. Ecco, ma l'avvocatura dello Stato ha detto che non le è dovuta nulla, perché 36 anni fa lei si era confessato colpevole. È andata così? Certo, la tesi dell'avvocatura dello Stato era questa, diciamo, che io, con la mia autoaccusa, avrei indotto i magistrati all'inganno e così, come dire, la colpa dell'errore fosse stata mia. Ma perché lei si era autoaccusato di una cosa che non aveva fatto? Certo, mi sono autoaccusato dopo una nottata passata all'inferno sotto le mani dei carabinieri di Alcamo. Cioè aveva subito sevizie? Sì, avevo subito delle torture, proprio cosiddette torture, cioè schiaffi, pugni, cioè lì dentro in quelle ore, in tutta quella nottata, era indescrivibile quello che hanno fatto. E quindi lei ha confessato? Sì, la mattina quando diciamo mi sono sentito male, poi sono svenuto, quando rinvengo gli dico: guarda, ditemi quello che volete che vi dico, che e la finiamo, diciamo, basta che la finite. Beh, quando è tornato libero però ha detto non ha ancora visto un euro dallo Stato. Ancora purtroppo no. No, ecco, però un mese fa c'è stato un colpo di scena. La Corte d'Appello ha condannato il Ministero a risarcirla con 6 milioni di euro. Ecco, sì. Questi 6 milioni di euro li ha avuti? Ancora no, e ora naturalmente purtroppo, ecco, quello che non funziona anche nel codice penale è quello che dopo una soluzione piena come la mia dovrebbe essere lo stesso Stato a darmi la possibilità di andare avanti. Ecco, ma invece, e cosa le hanno detto? Quando gli ridaranno? Ah, questo non lo so, ora bisogna fare noi le eventuali richieste tramite le banche, credo, come mi dicono i miei avvocati, quanto prima si spera di ottenerli. Io ecco, si ma spera quanto prima. Ecco, la sua vicenda si è riaperta quasi per miracolo nel 2009, perché un teste chiave, cioè un carabiniere, ha deciso di raccontare tutto, cioè di raccontare cosa? Chi era questo carabiniere che ha raccontato tutto? Questo era un ex carabiniere che all'epoca ha fatto indagini in ambito alla casermetta di Alcamo Marina. Questo, diciamo, è venuto fuori in una trasmissione televisiva, Blu Notte Misteri Italiani, che parlando della storia della casermetta di Alcamo Marina, e il conduttore Carlo Lucarelli ha detto che i presunti colpevoli dell'assalto erano stati tutti assolti. Io mi trovavo a casa in permesso, ho detto: come assolte? Io che ci sto a fare in carcere? In questo modo abbiamo cercato di contattare la RAI per mentire, invece abbiamo trovato un'email con una persona sotto il mio pseudonome di Sedic74 che sarebbe stato disponibile a raccontare i fatti avvenuti in ambito della casermetta di Alcamo Marina. E lei, lei ha parlato con lui? Ma io lui l'ho incontrato quando è venuto a testimoniare in Corte d'Appello. Ma esattamente cosa ha detto in Corte d'Appello? Ma ha detto quello che io ripetevo per tutti questi anni, che sono stato picchiato a morte, si può dire, dai carabinieri. Lui dal suo lato ha detto che le dichiarazioni mie e di quell'altro, diciamo, sono stati estorti con la forza. E perché lui era lì presente? Certo, lui seguiva le indagini con il capo di tutti, che era il tenente colonnello Russo. Senta, quindi, e altri carabinieri. Quindi lei in definitiva sta aspettando a questo punto questo risarcimento di 6 milioni di euro, così? Certo, si spera quanto prima lo possano dare, concedere e almeno vivere un po' più dignitosamente di come sto facendo adesso. Vabbè, questa testimonianza di Giuseppe Gullotta, condannato all'ergastolo e assolta e oggi ancora in attesa di risarcimento, come abbiamo sentito in Italia però non è il solo. Due imputati su tre in processi penali vengono assolti, ma si rovinano per sostenere le spese legali. Sentiamo su questo punto cosa ne pensa un avvocato illustre, un illustre penalista, Daniele Romeo. Ecco, avvocato Romeo, storie come quella di Gullotta sono un'anomalia o capitano spesso? Cioè, questa è una situazione estrema, però... Grazie al cielo è un'anomalia, questa, grazie al cielo è un'anomalia, sicuramente. Ecco, ma gli avvocati come si comportano generalmente in casi come questi o simili? Beh, lei fa una domanda da troppo difficile, perché gli avvocati sono tantissimi. Lei dice gli avvocati non esistono, esistono le singole persone. Esatto, interpreta benissimo. Ma ci sono degli avvocati bravissimi, sì, che applicano un'etica impeccabile e fanno del loro mestiere una vera e propria missione. Ci sono altre persone che purtroppo strumentalizzano, speculano e via dicendo, ma questo non lo dico io, purtroppo è una cosa molto risaputa, diciamo. Ma normalmente la prassi qual è? Quella di essere pagati subito o alla sentenza? Ma questo dipende molto, dipende dai casi. Solitamente ormai diciamo che si applica un tariffario in acconto proprio per evitare, insomma, delle situazioni spiacevoli, anche perché poi il nostro sistema ci crea dei problemi poi a recuperare delle spese, quindi la categoria, diciamo, prende precauzioni. Però non mi sento di dire che è una speculazione generale. Conosco molti avvocati che pensano prima alla causa e poi ai denari. Senta, ma qual è il caso più drammatico di questo genere che ha avuto lei nella sua carriera? Bella domanda, mi sta molto a cuore. Io ho avuto un caso di un ragazzo che è stato prelevato all'università mentre faceva un esame, mentre dava un esame. È stato arrestato perché una vittima di uno stupro lo aveva riconosciuto attraverso un album fotografico, quindi è scattato subito un provvedimento di custodia cautelare addirittura non hanno neanche atteso che finisse di dare l'esame all'università, quindi davanti ai professori, davanti è stata una cosa molto molto traumatica. Quella sì, fortunatamente poi siamo riusciti a dimostrare che questo ragazzo all'epoca dei fatti era all'estero, il che non è una cosa che si fa facilmente, perché poi vai a dimostrare che il giorno X tu eri in un posto, devi comunque produrre delle prove documentali che superano la prova testimoniale. Certo, quindi però, è stato un lavoro proprio da 007, diciamo. Sì, diciamo di sì, anche poi lì ci vuole anche un po' di fortuna, perché bisogna anche trovare dei riscontri documentali che non sempre esistono. In quel caso il ragazzo è stato poi scarcerato quasi subito, ha avuto il processo, è stato prosciolto e poi ha avuto un risarcimento? Ha avuto sì l'indennizzo che è previsto dal nostro codice come riparazione per ingiusta detenzione. E di quanto? In quel caso lui fece, mi pare adesso a memoria, quasi 15 giorni di carcere e fu risarcito con 7.500 euro dalla Cassazione. Sì, tenga conto che lì c'è un calcolo matematico, ormai certo. la Cassazione ha stabilito per ogni giorno di detenzione ingiusta una cifra standard sì. E che poi viene aumentata se nel caso specifico si riesce a dimostrare che c'è un danno che è stato subito, però lì è difficile, davvero difficile portare la prova certo. di alcuni tipi di danno che... Beh, anche perché quelli esistenziali psicologici sono difficili da valutare. È molto complicato, tenga conto che un ragazzo che viene prelevato all'università mentre certo. dà un esame subisce uno shock terribile, tremendo. E nessuna corte credo che sia in grado poi di... Senta, di avvocato Romeo, ma è vero che in buona parte d'Europa invece si risarciscono le spese legali? Sì, è vero, ma è una mezza verità questa, perché poi bisogna andare a vedere esattamente com'è che viene risarcita la spesa legale. Cioè? Io ho letto in questi giorni ci sono delle proposte di fare delle riforme per avere, diciamo, in caso di assoluzione il rimborso delle spese. Ecco, ma in Parlamento, per esempio, parlando dell'Italia, Nuovo Centrodestra, Forza Italia, 5 Stelle pensano di emendare la riforma del codice di procedura penale proprio in questo senso, cioè se sei stato accusato di un reato e sei stato assolto, lo Stato deve pagarti l'avvocato. Lei è d'accordo? Ma guardi, io devo essere sincero, non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Perché? Io non sono d'accordo nel mettere una sorta di spada di Damocle per il giudice, cioè lì non ci deve essere anche, come dire, il peso poi, no, di pesare sull'erario. Questo è un po' come il problema della responsabilità dei magistrati. Io sono convinto che una buona riforma vada fatta, però anche lì bisogna parametrarla, è un argomento delicatissimo. Tenga conto che gli avvocati hanno delle tariffe che sono variabili. Certo. Bisogna vedere cosa si intende risarcire le spese legali. Se io sono un avvocato costoso, non si può imporre allo Stato di pagare le mie parcelle, si può probabilmente in alcuni casi definire dei parametri almeno. Esatto, definire dei parametri che poi dovrebbero essere più o meno i parametri che poi vengono liquidati anche come spesa di costituzione di parte civile. Cioè, no? Quindi praticamente lei dice prendere i parametri che si usano adesso e estenderli a ogni tipo di indennizzo? Ma no, io direi un'altra cosa, direi che questa riforma forse può avere un senso dal punto di vista di come giustizia sostanziale, però come dire, poi alla fine nella pratica un avvocato costa molto di più di quello che lo Stato può risarcire ad un imputato, e quindi anche perché poi l'imputato in base alle proprie disponibilità poi va a prendere un avvocato più o meno costoso, quindi è molto molto difficile avere poi una situazione di equilibrio. Vabbè, però è meglio qualcosa che niente. Perché, assolutamente sì, assolutamente sì, se si applicano i mini, i cosiddetti minimi tariffari, poi è verosimile che qualcuno potrebbe anche ritenersi in qualche maniera soddisfatto. Vabbè, uno che sta 22 anni in galera, come abbiamo sentito prima, su quello non si discute. Su quello non si discute. Senta, ma mediamente, per finire, avvocato, mediamente, quanto dura un processo per risarcimento da ingiusta detenzione? Alle durate eterne degli altri processi o più veloce? No, è molto più veloce perché in realtà la competenza lì è della Corte d'Appello, si fa un'istanza motivata e la Corte d'Appello di solito riesce anche a provvedere in un'udienza soltanto. Lì il problema che io ravviso e che abbiamo sentito nell'intervista riguarda poi la liquidazione da parte dello Stato. Ah, ecco. Perché una volta detto ti devo 5 milioni di euro, poi di lì a quando te li do chissà quanto passa. Esatto, sì, il problema è proprio quello, perché lo Stato poi lì ha una procedura complessa, perché ci sono tantissime richieste in coda, molto spesso lì il Ministero ha dei fondi ad hoc per e quindi pagare, se ti va bene rientri nel numero che entra nella capienza di quell'anno, va bene, se no devi aspettare. È più o meno così. E lì poi il Ministero che deve delegare la Banca d'Italia, insomma la procedura lì è complessa. Diciamo che dura di più la procedura di liquidazione che la decisione. Esatto, che la decisione. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, insomma. Ti tengono in galera 20 anni, ti danno un risarcimento, però poi dopo non te lo danno perché non si riesce a pagare. E pensa che pazzesco. Non sono pochi, perché l'Italia dal 92 ad oggi, sono dati che avevo scritto tempo fa, quello che li ricordo, ha pagato 630 milioni di euro di risarcimenti. Infatti, per indennizzare 25.000 vittime di ingiusta detenzione. Tieni presente che in Italia ogni anno vengono arrestate 7.000 persone che poi si rivelano innocenti. Infatti quello che abbiamo detto, Pietrangelo, insomma, una giustizia che davvero, davvero fa fatica a esprimersi. Lo Stato che per esempio pretende tutto e subito, come nella riscossione delle tasse, è lento e distratto quando deve restituire o risarcire. E la giustizia poi, soprattutto in Italia, è come la malattia. Chi ci incappa non ha scampo, a prescindere della stessa innocenza. Infatti, Italia è un paese assurdo. Non è l'accusa che deve dimostrare il perché ti accusa, ma l'accusato che deve dimostrare di non essere colpevole. Scrive un nostro ascoltatore. Beh, Carlo Nordio, che è il procuratore aggiunto di Venezia, ha presieduto la commissione ministeriale per la riforma del codice penale ed è uno dei magistrati che per primo si è accorto della mancanza di norme chiare che tutelino gli innocenti. Ecco, dottor Nordio, non vedo, non sento, non parlo. È così che si comporta lo Stato nei casi dei tanti cittadini innocenti condannati ingiustamente ad anni di detenzione? Diciamo che lo Stato non ha molta attenzione nei confronti delle persone che sono state processate ingiustamente, e non alludo soltanto a quelli che hanno subito una carcerazione ingiusta, ma anche a quelli che hanno subito delle spese legali per processi lunghi e complicati che poi si sono rivelati essere ingiustificati, magari con una sentenza di assoluzione piena. In questi casi ritengo che lo Stato dovrebbe anche risarcire o comunque contribuire alle ingenti spese legali. Ecco, i risarcimenti come dovrebbero essere garantiti? Sia sul fronte del risarcimento per il danno subito, sia quello per le spese legali? Ma per il danno da ingiusta detenzione, secondo me, si tratta soltanto di quantificare, diciamo, in termini monetari il danno. Poi ogni paese ha le sue tradizioni, noi abbiamo, diciamo, scelto una via di mezzo. Certamente potrebbe essere aumentata, anche se il patrimonio di sofferenza di una persona che sta in prigione è molto diverso da persona a persona. Certo. Se fosse imprigionato lei o lo fossi io, certo, ma ingiustamente il coefficiente di sofferenza sarebbe molto maggiore rispetto a, non so, un pluripregiudicato, certo, ancorché condannato ingiustamente, che però è un po' assuefatto alla prigione. Sembra che sia brutta e cinica questa osservazione, no, però ecco, psicologicamente. Quindi questo per quanto riguarda il risarcimento per l'ingiusta detenzione. Quello che però mi colpisce come pubblico ministero, che da 35 anni vede processi che si concludono in vario modo, è anche il fatto che la persona che subisce un processo è già sottoposta a una pena in sé, come del resto insegnava il grande professor Carnelutti, che il processo è una pena. All'aspetto psicologico, all'aspetto mediatico, che è notoriamente molto negativo quando si finisce sui giornali per essere stati incriminati o processati, si aggiunge quello non secondario delle spese legali. Queste oggi sono assolutamente diciamo disconosciute da parte dell'ordinamento e ci sono... Io ricordo la battuta dell'onorevole Andreotti che disse che aveva dovuto vendere la collezione di francobolli per pagarsi gli avvocati. Esatto. Al di là delle battute, un processo come il suo, che è durato alcuni anni davanti a giudici diversi, ha dei costi che all'epoca erano sicuramente miliardari. Certo. Ora, non tutti pensiamo ai processi che sono in corso a Palermo adesso o in altre città, non tutti hanno la possibilità di ipotecare un edificio per pagarsi queste spese. Certo, quindi lei dice se uno è assolto lo Stato in qualche modo dovrebbe intervenire. Secondo me sì, dovrebbe intervenire. Ecco, un'ultimissima cosa, che giudizio dà della proposta, per quello che si vede, della giustizia che ha il governo Renzi? Innanzitutto bisognerebbe sapere in che settore, perché vi sono varie proposte di vario tipo. Per esempio quello più attuale è quello della prescrizione, ecco, e appunto, secondo me il problema esiste, nel senso che oggi naturalmente certi reati si prescrivono troppo presto, però nemmeno allungare a dismisura i tempi dei processi è una soluzione, perché confligge con un altro principio costituzionale della durata ragionevole. La soluzione per la quale io scrivo da tempo è quello non di allungare i termini di prescrizione, ma di farli iniziare non dal momento in cui il reato viene commesso, ma dal momento in cui il cittadino viene posto sulla graticola giudiziaria, cioè viene inquisito. Cioè a partire da quel momento. Faccio un esempio, ci sono dei reati come quelli che stiamo trattando a Venezia del Mosa, i reati cosiddetti dei colletti bianchi, che si prescrivono in 6-8 anni. E per definizione vengono scoperti in ritardo, perché mentre una rapina flagrante si scopre subito, un falso in bilancio o una falsa fatturazione ci vuole del si scopre tempo. Dopo 3-4 anni. A quel punto metà della prescrizione se n'è andata, ma non è neanche una buona ragione per tenere l'imputato magari per 20 anni, mentre se iniziassimo a far decorrere la prescrizione dal momento in cui lo mettiamo, diciamo così, sulla graticola giudiziaria, il tempo ragionevole di 6-7 anni lungo il quale lui avrebbe diritto ad avere una sentenza definitiva, mi sembra una soluzione congrua. Stimolerebbe anche la giustizia a fare i processi in tempi ragionevoli. Altrimenti daremo ai magistrati, sospendendo o interrompendo senza limite la prescrizione dopo magari l'esercizio dell'azione penale, lasceremo ai magistrati un arbitrio assoluto per tenere il processo anche 10-20 anni. Ecco, mi scrive un nostro ascoltatore, Marco Mancini, dice: potrei dire qualcosa anch'io sulla carcerazione preventiva, 9 mesi di cui 6 in isolamento per poi essere assolto in udienza preliminare. Beh, insomma, anche questo è un caso abbastanza clamoroso. 800 24 00 24, se volete telefonare, 349 238 6666 per commentare via SMS. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. Mix 24. E allora, Pietrangelo, che ci arriva, fai ascoltare? Arriva. Slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Pietrangelo. E allora il mattino ha le movenze di Falbalà, un'eleganza speciale, scende le scale della metropolitana e poi, come Falbalà, volta nei vapori dei sogni, stampa le fantasticherie dei sogni in un sorriso, va verso i vagoni e incontra i pendolari, tutti piacevolmente strani. Ha chiamato Obelix, per Falbalà, giusto appunto, e ha rivolto una domanda in forma di dedica: e se facessi una metropolitana tutta di Manir? As it pours, and she fights for her life as she goes in the store. With Mario, torniamo sulla terra, eh? Una bolla? Quando entriamo nel cavò, prima un po' di musica. Non rispondo della musica di oggi. Questo è frutto delle... Non c'è più voglia di lavorare, eh? No, le televisioni, la guerra, no, ma mi ha anticipato, perché quando stavamo scrivendo il nostro copione, a un certo punto lei era già pronta. Che fai, edici, chi arriva prima? Oggi pure gli occhiali scuri, non si capisce perché, però vabbè. C'è delle incertezze. Il sintomatico mistero di Battiato era, no, Pietrangelo, più o meno. Sì, certo. È carisma. È carisma. Vabbè, e senti, io volevo parlare un po' dell'uscita di Federico Ghizzoni, annunciata, non ancora realizzata, però insomma si realizzerà. C'è stato il CDA di Ghizzoni. Beh, molto strana questa uscita. Una storia curiosa, molto divertente, secondo me, anche istruttiva. E proiettata all'estero, ma anche molto italiana. Allora, proviamo a spacchettarla un po', no? Il primo punto, vabbè, Ghizzoni viene imputato, insomma, è caduto sulle spalle di Atlante e della OPS, dell'offerta pubblica di sottoscrizione di Popolare Vicenza, che non andò bene, quindi Atlante subentrò, lui, gli imputano di averla fatta un po' di testa sua, ma insomma, in ogni caso, insomma, vabbè, c'era Atlante alla fine, quindi voglio dire... E per questo mi sembra un po' insufficiente. Ma i risultati del trimestre erano buoni, no? Sì, abbastanza. Abbastanza. C'ha un ratio sulla garanzia che è al limite, però insomma. Vabbè, queste sono parole difficili, però c'è anche il fatto che io non so come interpretarlo, ma la borsa, lui annuncia, la borsa sale. Vabbè, ma questo è sempre così, perché ci si aspetta un nuovo piano, un nuovo scenario. Io mi chiedo però, per esempio, così una domanda da cronista: che fine hanno fatto i consiglieri indipendenti di Unicredit? Non si sente la loro voce su un tema del genere. Mi chiedo anche, sempre da cronista, molto umilmente, se un consiglio che aveva appena pochi giorni fa, di fatto, rinnovato la fiducia a Ghizzoni, possa oggi levargliela e restare in carica anch'esso, tanto per dire. Mi chiedo anche se, voglio dire, un top management debba privarsi della D e poi lasciare tutti gli altri. Io penso di no, per esempio. So anche che i fondi esteri pensano, in realtà, che debbano andarsene via tutti. Insomma, situazione... È un work in progress, è una situazione abbastanza strana. Non è ancora chiara. Tieni presente che nel primo trimestre Unicredit ha erogato nella totalità di tutti i paesi dove opera 15 miliardi di euro di prestiti. Parliamo di una banca sistemica, si dice in questi casi. Vabbè, e insomma, stiamo a vedere. Se n'è andato. E però lo ringraziano perché ha gestito la banca bene. È strano. Cioè. È strano, si capisce poco. Poche informazioni. Salamino. C'è una femmina nuda e la gente deve sapere. Che la gente debba saperlo lo ha detto il padre di questa femmina nuda, Besciana Costuri, 27 anni, presa a 150 metri da casa sua nella sera del 6 maggio da due uomini, tenuta poi sotto sequestro, drogata, violentata per 5 ore in un campo rom del quartiere Prenestino a Roma, da dove è riuscita a scappare per trovare rifugio dai carabinieri. La gente deve sapere, ripete il padre, Vladimir, professore, insegnante di matematica di origine albanese, come la figlia, di cui nessun giornale scrive, riferisce e racconta, soprattutto in questi giorni di campagna elettorale a Roma, dove tutti, destra e sinistra, parlano e straparlano di sicurezza. La gente deve sapere, ripete il padre, firmando una lettera in cui chiede che venga diffusa questa notizia. Ed è una storia, questa di Besciana Costuri, tenuta nel silenzio da tutti perché manda in cortocircuito le sporche logiche di propaganda degli uni e degli altri. La sinistra, egemone in punta di retorica, non ne parla perché il delitto si è consumato in un campo rom. La destra, egemone in punto di bottega anti-immigrati, non ne parla perché la vittima è albanese. Besciana Costuri, sfuggita alle bestie per correre dai carabinieri, è riuscita a farne prendere uno dei due. Non è stata presa invece la notizia nella sua gravità. E con la destra e la sinistra a fare la gara di omertà e rimozione, anche i giornali hanno fatto scivolare nel dimenticatoio questa storia. Nessuno accende riflettori, nessuno ne fa riflessione. La gente deve sapere, urla il padre, che ha organizzato con la Lega Immigrati Albanese una manifestazione per chiedere insieme di stare uniti e fermare il degrado. C'è questa femmina nuda e la gente deve sapere. Mia figlia, ha ripetuto Vladimir, ha deciso di sacrificare la privacy perché la gente sappia e le istituzioni si mettano in moto. I carabinieri stanno per arrestare la seconda delle due bestie che hanno violentato Besciana. Destra e sinistra intanto cercano i voti e se ne stanno zitte. La sinistra per non venire meno alla retorica. La destra per non rinunciare alla xenofobia. Mario, c'è ancora una bolla? Andiamo in Iraq. Questa è bella, dai. Oh, me la tiri su. Alright, va bene, Rainbow. Va bene. La musica della guerriera oggi aveva un suo perché alla fine. E siamo sempre tornati. Sei un difensore acritico, buttafuoco. E allora, siamo tornati in Iraq. Uno potrebbe dire: non ce ne siamo mai andati. Sì, però ci siamo tornati in forza. E sono andato a leggermi il decreto di rifinanziamento delle missioni militari all'estero che è appena sbarcato nelle commissioni riunite esteri e difese in Senato. E insomma, cosa hai scoperto? Se non è guerra, ci siamo vicini. È una cosa seria, perché voglio dire, mandiamo personale di staff, una componente, parlo di Iraq, no? Una componente aerea con cellula connessa di supporto a terra, compiti di ricognizione e rifornimento in volo. 100 unità appartenenti all'arma dei carabinieri per l'addestramento ai curdi, all'esercito curdo. Dal 1 aprile un dispositivo si chiama di personal recovery, cioè attività di ricerca, individuazione e recupero del personale rimasto isolato in ambiente ostile. In più c'è un'ulteriore aliquota di personale, 137 unità relativi a setti aeromobili, cioè elicotteri, aerei e così via, a decorrere dal 1 aprile 2016, e un team di militari di 100 unità per lo svolgimento di attività di ricognizione, pianificazione in sicurezza, a cui si aggiungerà poi un contingente aggiuntivo di altre 400 unità con compiti di force protection, cioè la famosa area di Mosul, la diga eccetera eccetera eccetera. Sono in corso trattative che devono essere formalizzate, questo viene specificato nel decreto, con il governo iracheno per autorizzare poi l'ingresso dei nostri soldati in quest'area di guerra. E insomma, welcome in Iraq, siamo tornati. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, gli sms pubblicità. Mix 24. Mio figlio non era terrorista, me l'hanno ammazzato, lo dovete capire voi e quelli che stanno facendo le indagini alla ferrovia. L'ammazzare i mafiosi, una strage hanno fatto di mio figlio, era meglio che lo sparavano. Dopo che me l'hanno ammazzato in quel modo, lo fanno pure terrorista. L'ammazzare i mafiosi. Come vanno le cose a Cinisi, lo sanno tutti. Lo so io e lo sapeva Giuseppe. Come lo sapete voi? E Lunetta Savino nella recente fiction di Rai 1 interpreta Felicia, la straordinaria madre coraggio di Peppino Impastato, che per 20 anni ha chiesto giustizia per la morte di suo figlio. Documentari, film, libri continuano a raccontare quei tragici giorni del maggio del 78. Così il temerario ragazzo di 30 anni, che attraverso la sua piccola radio locale ha denunciato e ridicolizzato il boss di Cinisi, Tano Badalamenti, continua a vincere la sua battaglia. Peppino Impastato, omicidio di mafia, le testimonianze, le collusioni, la forza della verità. Qui a Mix 24, i gialli della storia, dopo il giornale radio. canzoniere. Poeti dolci fratelli, perché far tanto sussurro, se un lembo di cielo è azzurro, se son biondi dei capelli? Un po' d'azzurro che vale, ed un po' d'oro, un riflesso d'oro, ma il mondo è lo stesso, ma la vita è sempre uguale. Non c'è né duolo né gioia, non c'è né odio né amore, nulla, non c'è che un colore, il grigio e un tarlo, la noia. Beh, questo è difficile, dai, un aiutino. No, è facilissimo, un tarlo, la noia. Un aiutino, dai, prima di... Non è Califano. Prima, ecco, che dia i numeri, dai, no, dai, no, dì, un dai, aiutino, vai, dai. Parla di noia, ma non è Franco, no, Califano. 800 24 0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, vabbè, aspettiamo qualche telefonata, qualche SMS. Intanto, col professor Roberto Bernabei, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più prestigiose del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Allergy, maggio 2016. Il fumo in gravidanza influisce sul patrimonio genetico del nascituro e provoca malattia polmonare durante la vita adulta. Che fumare faccia male è ormai una banalità, ed è evidente che anche la sigaretta elettronica non abbia fatto progressi particolari nel migliorare questo stile di vita. È solo invece uno stile di vita oggettivamente sobrio, sano e pieno di esercizio fisico e di assenza dal fumo fa longevità. Ma quello che più interessa, ed è il dato dell'articolo, che non solo fumare durante la gravidanza è cosa ulteriormente negativa, ma porta all'aumentato rischio di malattia polmonare, cancro e obesità nel nascituro, ma anche qui questa piccola influenza dell'ambiente, in questo caso il fumo durante la gravidanza, produce nei bambini a 4 anni già un danno polmonare rilevabile, con una funzionalità del polmone che è diminuita. Quindi ancora una volta l'epigenetica, cioè l'influsso dell'ambiente sul patrimonio genico, dà dei danni che sono immediatamente e rapidamente rilevabili nel nascituro. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto oggi? Oggi una canzone per chi tra mille affanni non è andato via ed è rimasto come un segno sul cuore. Giuni Russo, La sua figura. Sai che la sofferenza d'amore non si cura, se non con la presenza della sua figura.